La sapienza non vuole questo papa. Dante avrebbe messo Galileo nel limbo a rilassarsi con Aristotele, che non è mica colpa del metodo scientifico se la Terra, e con essa l'uomo che ben la rappresenta, è solo una pallina di merda che zummola più o meno ordinatamente per l'universo. Anzi, lo dicevano anche gli antichi egizi.